Italia in controluce. Buongiorno a tutti e buon pomeriggio da Daniele Biacchessi. Torna dunque per il mese di settembre Italia in controluce, l'approfondimento del giornale di Radio 24. Innanzitutto i vostri sms, gli sms dei nostri ascoltatori, ritornano nuovamente le vostre opinioni al 349-238-6666. Dunque oggi l'abbiamo titolato così: Matteo Renzi prende tutto, perché Matteo Renzi da ieri punta ufficialmente alla segreteria del Partito Democratico. Lo dice ad alta voce ad Enrico Mentana durante l'intervista alla Festa Nazionale di Genova. Renzi però avverte anche il suo partito, dice: non possiamo ripetere l'errore dell'altra volta, sbagliare un calcio di rigore a porta vuota, ora dobbiamo vincere. Questo è quello che ha detto ieri sera Renzi. La candidatura ufficiale di Renzi alla guida del PD sembra sbaragliare il campo degli avversari. Alle prese con il voto del 9 settembre alla giunta delle elezioni del Senato, dove si decide la decadenza o meno del senatore Silvio Berlusconi. Vi chiediamo allora al 349-238-6666 se Matteo Renzi può essere l'uomo nuovo, considerato l'uomo nuovo della politica italiana, e se può essere Renzi anche un'occasione non solo per il centro-sinistra, cioè per rinnovare il centro-sinistra, ma anche per rinnovare più in generale la politica italiana e dunque anche il centro-destra. Cioè, in sostanza, se a Berlusconi o alla PDL o a Forza Italia, così come si chiamerà, potrà far bene anche avere un uomo come Matteo Renzi, un rottamatore, uno che vuole in qualche modo guardare avanti quello che ieri ha chiamato una vera e propria rivoluzione. 349-238-6666, i vostri sms. Allora, subito a Roma con Elisabetta Fiorito. Sì, Daniele, buongiorno dalla Camera. Matteo Renzi, come hai detto tu, esce allo scoperto, si dice disponibile a guidare il partito, ma le reazioni dal partito non si fanno attendere. Ecco, appunto, subito il capogruppo alla Camera, Roberto Speranza: Renzi, non pensi di fare il leader, il premier è una ricchezza per il PD, ma il nuovo segretario dovrà avere in mente solo il rilancio del nostro partito e non altri obiettivi. Per Speranza, quando ci saranno le elezioni si faranno le primarie, sceglieremo il nostro candidato a Palazzo Chigi, abbiamo bisogno di una profonda ricostruzione. Anche Gianni Cooper lo avverte, il sindaco di Firenze: se Renzi pensa di mandare in soffitta la sinistra qualora dovesse vincere il congresso, faccia bene i suoi conti, perché non esiste PD senza sinistra. Più cauto il presidente della regione Liguria, Claudio Burlando: il PD ha messo in campo due personalità significative che non devono giocare l'una contro l'altra, ovvero Renzi e Letta. Ieri la candidatura di Renzi alla segreteria del PD, come hai detto tu, che cosa ha detto il sindaco di Firenze? Voglio il voto di tutti, non di una corrente. Non è un mistero che ci stia facendo un pensierino, ma decidono gli elettori. Comunque sprona sempre Guglielmo Epifani che deve convocare il congresso, va fatto secondo Renzi entro il 7 novembre. E poi la metafora calcistica: non possiamo fare l'errore dell'altra volta, quindi di sbagliare un calcio di rigore a porta vuota. Queste le notizie da Montecitorio, Daniele. Grazie Elisabetta Fiorito, che sentiremo più tardi per quanto riguarda lo spazio della redazione romana sulla politica. Sono già arrivati moltissimi sms, come mi fa molto piacere il ritorno d'Italia in controluce su Radio 24, provoca come sempre divisioni. E allora cominciamo subito con un ascoltatore che dice, scrive al 349-238-6666, che Renzi è il candidato che si sarebbe dovuto giocare molto tempo fa, ora non vorrei che fosse bruciato perché è persona di grande eccezionalità. Marco da Ferrara dice che si sogna un panorama politico di questo tipo: Renzi contro Grillo. Marco da Ferrara. Sì, per me lo è l'uomo della politica. Renzi non è nulla di nuovo, è come Berlusconi, un altro nostro ascoltatore. Renzi è la sinistra berlusconiana, una finta sinistra, insomma uno specchio per le allodole, un altro ascoltatore. L'unica vera novità è il Movimento 5 Stelle, ci ricorda Matteo da Modena, l'unica soluzione per questo paese. Nell'anomalia italiana manca invece una vera destra liberale. Questi sono le vostre parole al 349-238-6666, un'altra ascoltatore. un'ascoltatrice, Marina, da Milano, dice: alla sua domanda risponde semplicemente no, la ragione, non prendiamoci in giro con Renzi. Renzi è un'opportunità per il PD, dice Francesco, altro nostro ascoltatore, 349-238-6666. Allora andiamo ad ascoltare ciò che ha detto ieri Renzi a Genova, quindi festa nazionale. Molti hanno pensato che Renzi aspettasse soltanto questo grande appuntamento di ritorno, che è la festa nazionale del PD di Genova, e iniziamo subito ad ascoltare Renzi sul PD. È il primo partito tra i dipendenti pubblici ed è un fatto positivo, però tra i disoccupati siamo il terzo partito, tra le partite IVA siamo il terzo partito, tra i liberi professionisti siamo il terzo partito, tra gli studenti siamo il secondo partito, c'è davanti a noi Grillo. Allora, il punto non è cosa faccio da grande io. Il punto è se tutti insieme proviamo a fare un partito che alla prossima volta non faccia l'errore che abbiamo fatto la volta scorsa, sbagliando un calcio di rigore a porta vuota. Noi vogliamo fare un partito che finalmente torni a vincere. Questo è il punto. Io farò tutto quello che può servire per dare una mano a raggiungere questo obiettivo. Disponibile a guidare questo partito? Assolutamente sì, bisogna capire se sono disponibili gli elettori che mi votano, perché non è che decido io, decidono quelli. Sa, questo è un po' un caso più unico che raro, perché il PD è l'unico partito che ancora svolge questo esercizio democratico di far scegliere il leader ai propri elettori, simpatizzanti, amici, cittadini. Cioè gli dice: ragazzi, facciamo le primarie e vediamo chi è, perché gli altri non lo fanno così. È interessante, lo dico a Genova, nella patria di Beppe Grillo, perché lui è quello per lo streaming. Poi quando deve decidere che cosa fare, carica i suoi parlamentari su un pullman, li porta a 100 km di distanza e si mettono d'accordo. Allora, c'è un fatto, direi, ontologico, senti qui, sono alla O del vocabolario, che è costitutivo del Partito Democratico. Ci chiamiamo democratici perché scegliamo insieme. Ancora moltissimi sms al 349-238-6666. Renzi è una faccia nuova della stessa vecchia politica e finta sinistra, quindi non serve all'Italia. L'unica soluzione è il Movimento 5 Stelle. Un altro ascoltatore: solo Renzi ci porterà alle urne. Gianni da Salerno. Renzi è un ottimo contenitore, ora però bisogna riempirlo di contenuti, dice Cristiano da Treviso. Molto arrogante, un altro ascoltatore: Renzi è una sorta di Berlusconi di serie B. Cinzia da Roma dice che Matteo Renzi fa una battaglia anche generazionale, che molti suoi connazionali possono capire molto bene. La sinistra è già stata mandata in soffitta da Bersani e compagni, l'unica possibilità per il PD è proprio Renzi, dice Cristiana. Renzi, il giaguaro numero due, dopo cosa si fa? Si smacchia da solo? Domanda ad un altro ascoltatore. Bentornati, Renzi non aveva mai voti di noi bersaniani. Maria Rosaria Trunfio, e vediamo, speriamo che vinca, così si toglie dai piedi come sindaco. Un ascoltatore da Firenze dice: non l'ho votato alle primarie, ma credo lo voterò stavolta, speriamo riesca a portare un grande rinnovamento, dice Matteo da Padova. 349-238-6666, continuiamo a parlare di Renzi, a farvi ascoltare. Renzi parla della sconfitta delle primarie. Dicevano: se vincerà Renzi finirà la sinistra, solo perché io avevo detto che se avessi vinto avrei mandato a casa un po' di gente che da 30 anni sta lì, che è un'opinione discutibile, non voglio dire che è giusta, ma è un'opinione che io avevo avanzato. Il momento di svolta secondo me è duplice ed è caratterizzato da due sconfitte. Uno, la mia: quando io ho perso le primarie ho detto una cosa semplice: signori, io ho perso. In tanti mi dicevano: ma vieni via, ma lascia stare, ma facciamo una cosa nuova, oppure qualcuno diceva: chiedi il 40% dei posti, fatti la tua corrente. Io ho detto una cosa molto semplice: ho lottato fino all'ultimo giorno, e ho lottato, credo di poterlo dire, facendo di tutto, perché non ho mollato fino all'ultimo secondo, ma quando ho perso ho detto: signori, ha vinto Bersani. La malattia della politica italiana è che non perde mai nessuno. Tutti quelli che perdono dicono: io non è che ho perso, ho non vinto, ho quasi pareggiato. Io ho detto: io ho perso, ha vinto Bersani, viva Bersani, torno a fare il mio lavoro di sindaco senza chiedere niente. Sono l'unico esempio di candidato alle primarie che quando ha perso non ha avuto il premio di consolazione. Questo fatto qui ha fatto, credo, scattare anche in chi non mi aveva votato l'idea di dire vabbè, allora non è così distruttore, perché evidentemente è rimasto con noi. Però il vero motivo, direttore, lei lo sa meglio di me, e non è la mia sconfitta e basta, è che poi il 25 febbraio ha perso il PD. Perché riuscire a non vincere quelle elezioni non era facile per noi. Ci siamo dovuti impegnare. Avessimo pensato un po' meno a smacchiare il giaguaro e un po' di più al lavoro dei giovani, a dare delle proposte, oggi al governo ci saremmo noi. Questo Matteo Renzi sulla sconfitta delle primarie. Intanto i vostri sms al 349-238-6666. Renzi è un politicante come gli attuali seduti in un Parlamento delegittimato. Boni, così si firma. Vincenzo invece scrive: no, Renzi, un altro raccontatore di favole, un po' sbruffone, un po' di contenuti minimi, un uomo comunque, secondo Vincenzo, di centrodestra. Renzi non è un grand'uomo di sinistra, ma vorremmo sentirgli dire con grande chiarezza che Berlusconi deve andare fuori dal Parlamento. E poi chissà, no, Renzi, capo del PD, vogliamo uccidere definitivamente la sinistra italiana e salvare altri, come scrive Davide da Salerno. Letta segretario e Renzi candidato premier. Purtroppo Renzi è un male necessario, ma tolto Berlusconi è proprio il meno peggio, un altro ascoltatore. No, non sono del PD, ma se non lo prendono questa volta spariranno per sempre. Chiaro che Renzi da solo non può cambiare, dice Anna Lidia Rezzara da Vicenza. Se diventasse leader nel nostro ingessato paese, una speranza, una ventata d'aria fresca che attira molte persone, non decisamente di sinistra, dove credono di andare con Epifani, Bindi, D'Alema, Finocchiaro. Dunque questo sms Anna Lidia Rezzara. Moltissimi, per esempio Dino da Genova dice una cosa: ho provato l'emozione che provavo e avevo provato ai tempi di Berlinguer. Ci vogliono facce nuove, sia Renzi per salutare il perdente Bersani. Questi sono i vostri sms al 349-238-6666. Allora ascoltiamoci l'altra parte, che è quella che riguarda Renzi su Berlusconi. Io ho sempre detto che Berlusconi andava rispettato e che, no, potete fischiare quanto vi pare, a parte non fischiavo nessuno, ma insomma, diciamo, va bene lo stesso, veniva bene sull'onda dell'enfasi. Il problema è che un garantista è uno che non considera Berlusconi colpevole al primo articolo del Fatto Quotidiano, alla prima indagine di Repubblica, al primo servizio di Report. No, non lo considera colpevole nemmeno alla prima sentenza o alla seconda. Quando in uno stato di diritto un cittadino viene condannato per via definitiva, se tu contesti questo fatto, contesti le istituzioni. E allora io ho soltanto detto che il problema non è la decadenza a settembre o il ricalcolo della prescrizione, della interdizione. Il problema è molto semplice. La vicenda di Silvio Berlusconi è quella chiara, evidente, di una condanna che è passata in giudicato. Ora però possiamo sommessamente dire che dopo 20 anni rivendico per questo paese il diritto a non vivere tutti i giorni un referendum su Berlusconi? Siamo stati 20 anni a parlare della sua presenza. Possiamo non parlare i prossimi 20 mesi della sua assenza? Possiamo parlare di noi, dell'Italia, dei nostri sogni, dei nostri figli, non di Berlusconi. Il PD deve parlare di altro. Questo è il PD che dobbiamo fare noi. 13:43 minuti e 37 secondi, vi saluto qui Daniele Biacchessi, vi ricordo Italia in controluce tutti i giorni, l'approfondimento del giornale radio di Radio 24, a domani, stessa ora, 13:30.